Roma Trastevere, 20 febbraio 1974. Care Eleuterio, la casa che vede felici mia sorellina e me oggi ci vede precipitate nello sconforto. Dopo il nostro ultimo litigio sono finita. Mia sorellina, con un nodo alla gola, dice che sei un delinquente abituale. Sto piangendo. E io penso che le lacrime sono il distillato della malinconia. Penso anche che sei un cretino maiuscolo, Eleuterio. Non puoi litigare solo perché abbiamo deciso, mia sorellina e io, di attuare il potenziamento delle attività sportive. Sempre tua. Roma Parioli, 21 febbraio 1974. Improbabile sempre mio. Mi dispiace che la casa che vide te e tua sorellina felici oggi vi veda precipitare nello sconforto. Mi dispiace perché lo sconforto non è un burrone, purtroppo. Mi dicevi che tua sorella ha un nodo alla gola. Spero vivamente si tratti di un nodo scorsoio. Di attività sportive, potenziate o meno, non ne voglio sentir parlare. Eleuterio, ho scritto, prega tua sorella di non passare da queste parti. La portinaia è al terzo mese di gestazione e non vorrebbe, vedendo tua sorella, suggestionarsi al punto da mettere al mondo un parallelepipedo con baffi. Roma Trastevere, 22 febbraio 1974. Care Eleuterio, gattinaccio, significa gatto esiguo, ed indole cattiva. Mia sorellina non ha preso bene la faccenda del parallelepipedo coi baffi e quella del nodo scorsoio. Ha comprato un abbacchio intero e con le manine, usando solo gli indici e i pollici, ne ha ricavato dello spezzatino. Dice che le è servito d'allenamento e che adesso è ansiosa di incontrarti. Nel cielo ci sono tante nuvole bianche che sembrano di panna montata. E io penso che la panna, in fondo, non è che la schiuma da barba della granita di caffè. Penso anche che dovrai subire il potenziamento delle attività sportive, sempre tua. Roma Parioli, 23 febbraio 1974. Inesauribile sempre mia. Senza di te incomincio a soffrire. Mi sei necessaria. Con te vicino non posso fare a meno di pensare a quanto era bella la vita prima che ti incontrassi. Il rivivere, sia pure col pensiero, i tempi felici. Mi rilassa. Torna. Qualcuno ha sostituito il tavolo di noce con un tavolo di legno bianco, forse acero. Sei stata tu prima di andartene? Eleuterio. Ho scritto, il portinaio ha svelato il mistero del tavolo. È sempre quello di noce. Dice che non andava pulito con l'acqua ossigenata. Accidenti alle bottiglie tutte uguali. Roma Parioli, 24 febbraio 1974. Care Eleuterio, micione, ti scrivo dalla casa nella quale mi hai chiesto di tornare perché me ne ero andata. Sono di nuovo con te, Eleuterio, anche se tu non ci sei, ma quando tornerai tu ci sarai e ci saremo tutti e due. L'orologio a pendolo mi dice che tra poco tornerai e io penso che il pendolo è l'altalena del tempo che gioca in attesa di passare. Penso anche alla nostra ultima lite, della quale ricordo perfettamente ogni particolare. Tu eri in casa e quando sono rientrata io mi hai aggredita. Eleuterio, ci sei? E ci sono. E finalmente sei qui anche tu. Mi devi raccontare che diavolo ti è venuto in mente questa volta. C'è qualche cosa che non va, Eleuterio? Intanto tu non mi vai. E poi mi devi dire che fine hanno fatto la mia rubrica del telefono e il vocabolario che erano sulla scrivania. Dove diavolo li ha messi? Eleuterio, non c'è bisogno di arrabbiarsi. La rubrica telefonica, i vocabolari e tutti i libri che consulti ogni momento sono nell'ultimo scaffale in alto dell'armadio a muro in fondo al corridoio. E il telefono? Dove sta il telefono? E la mia scrivania? Perché al posto della scrivania c'è un tavolinetto di 50 centimetri di lato? Perché? Calma, Eleuterio, è per il tuo bene. Mia sorellina e io abbiamo deciso di incrementare le tue attività sportive. Tua sorellina dovrebbe fare dello sport. Quadrata com'è, basterebbe che si sdraiasse in terra, sarebbe un ottimo ring. Eleuterio, lascia stare mia sorella. Ti spiego. Abbiamo situato i libri che consulti più spesso sullo scaffale più alto dell'armadio a muro. Quando te ne serve uno, tu vai in soffitta, prendi la scala, sali, prendi il libro, riva in soffitta, rimetti a posto la scala, torni nello studio e consulti. Fai del moto, Eleuterio. Terremoto faccio tra poco. E si può sapere perché mi hai cambiato la scrivania? Sempre per ragioni sportive. su un tavolo piccolo, c'entra la macchina da scrivere e basta. Carta, carta carbone, gomma, fermagli, matite, tutto in terra accanto al tavolo. Quando ti occorre qualche cosa ti inchini e la prendi. Flessioni, Eleuterio. Prendi quello che ti serve e lo rimetti a terra, perché sul tavolo non c'è posto. Doppia flessione. E io ti raddoppio di volume a forza di schiaffoni se non rimetti tutto a posto. Il telefono, dove accidenti sa? Prima di tutto non minacciare, sennò ti rompo il portombrelli sulla nuca. E il telefono è in cima al credenzone nella stanza di servizio, così per rispondere devi attraversare tutto l'appartamento partendo dallo studio. E di corsa! Ah sì, di corsa! Sì, Eleuterio, se vuoi sapere chi ti telefona, devi correre, perché dopo 3 squilli cade la linea. Sì, perché mia sorellina ha fatto fare un apposito aggeggio da un suo amico elettrotecnico. La sorellina si dovrebbe fare un'applicazione di vetriolo su quella faccia di mortadella che chiama viso, e forse dopo potrebbe essere anche guardabile rispetto a come è adesso. Eleuterio, piantala con mia sorella, lo sport ti fa bene, lo devi fare. Senti, tu adesso chiami subito il bisonte. Mia sorella non è un bisonte. Vabbè, l'ippopotamo lo stesso, lo chiami. Lo fai venire qui e smantellate le attrezzature sportive, se no io comincio subito a fare dello sport. Bravo, Eleuterio, ti farebbe bene. A te un po' meno, datti da fare, sbrigati, ho fretta. Io non smantello proprio niente. Eleuterio, posa quel bastone. Questo non è un bastone, è una lancia africana. No. E io comincio a fare lo sport col lancio del giavellotto. No, Eleuterio. Mirando a un bersaglio preciso. Eleuterio, metti giù quell'arnese, eh? Mirando a un bersaglio preciso, che se c'è entrato a me darà la gioia della vittoria. No. E a te la sensazione in grande di una iniezione Eleuterio. Intramuscolare. Eleuterio, non fare il pazzo, posa quella lancia o me ne vado. Vai pure, non mi voltare le spalle però. Sarebbe un'occasione che non perderei. 1, 2... Sei un assassino, donna da mia sorellina. Ricordo tutto perfettamente, ma quando rientrerai farò finta di niente. Ciao. Ciao, Eleuterio Miccione. Scusami se torno un attimo al telefono. Sto parlando con mia sorellina per decidere come ristrutturare il tuo armadio guardaroba secondo certi criteri più...